arriva, non ho mai coraggio di accettare una sfida, come in una nave rimaner nella stiva, in una squadra fare a vita panchina, pur di non entrare faccio carte false, e poi mi lamento se non